con stupore ed amarezza abbiamo dovuto constatare che in tale provvedimento non è stata predisposta alcuna sospensione di versamenti tributari e contributivi. E in pratica si è incaricato il commissario delegato, cioè il governatore Zaia, per distillare l'elenco delle imprese che abbiano subito il fermo dell'attività produttiva e che siano state oggetto di ordinanza di sgombero, perché dice l'ordinanza, solo a queste verrà in futuro concesso un probabile differimento di termini. Ora noi ci troviamo oggi in una situazione nuovamente di grande allarme, ora dovere ottemperare i versamenti che oggi già erano in scadenza per le ritenute fiscali e contributive e sull'IVA mensile ci sembra veramente difficile per quelle aziende che hanno subito e stanno subendo dei danni, pensi agli uffici allagati, pensi ai computer non funzionanti, pensi agli archivi distrutti. Come possiamo ottemperare a queste disposizioni?